riguardo ai pilastri dell'Islam, sulla professione di fede, Shahada, cos'è l'Islam? L'Islam è un sistema di vita che abbraccia tutti i campi dell'attività dell'uomo, ognuno dei quali è regolato da norme che si trovano nel sublime Corano e nella nobile Sunna. Cosa vuol dire l'espressione «l'Islam si fonda su cinque pilastri»? L'espressione «l'Islam si fonda su cinque pilastri» vuol dire che il sistema di vita che abbraccia tutti i campi dell'attività dell'uomo, ognuno dei quali è regolato da norme che si trovano nel sublime Corano e nella nobile Sunna, ha una struttura portante costituita da cinque adempimenti fondamentali, ognuno dei quali, essendo essenziale come essenziali sono i pilastri in una costruzione edilizia, viene chiamato pilastro dell'Islam. Quali sono i pilastri dell'Islam? I pilastri dell'Islam sono: 1. La professione di fede. 2. Il rito d'adorazione. 3. L'imposta coranica. 4. Il digiuno di Ramadan. 5. Il pellegrinaggio alla Mecca. Cos'è la professione di fede? La professione di fede è il primo pilastro dell'Islam, e questo sulla base dell'insegnamento del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il quale ha detto: l'Islam si fonda su cinque: la professione di fede, che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è l'apostolo di Allah; il rito di adorazione; l'imposta coranica; il digiuno di Ramadan; il pellegrinaggio alla casa di Allah, che è obbligatorio per chi ne abbia la possibilità. Qual è la formula della professione di fede? La formula della professione di fede è: Ashhadu alla ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qual è il significato letterale della formula? Il significato letterale della formula è: rendo testimonianza che non c'è divinità tranne Allah, rendo testimonianza che veramente Muhammad è l'apostolo di Allah. Qual è il significato sostanziale della formula? Il significato sostanziale della formula è: rendo testimonianza che non c'è divinità tranne Allah, avendo preso come mio codice di vita il sublime Corano, che è la parola di Allah, l'Altissimo, con esclusione di qualsiasi regola di vita che provenga da una fonte diversa, e rendo testimonianza che Muhammad è l'apostolo di Allah, avendo preso solo ed esclusivamente Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, come maestro di vita, guida spirituale, modello di comportamento. Quale valore ha la professione di fede? Ha valore costitutivo oppure dichiarativo? La professione di fede islamica ha valore dichiarativo. Perché la professione di fede ha valore dichiarativo e non costitutivo? La professione di fede ha valore dichiarativo e non costitutivo perché la qualità di musulmano non si acquista per effetto della pronuncia delle parole della formula, ma si acquista con la acquisizione della certezza delle verità fondamentali della visione islamica del mondo e con la pratica delle norme di vita dell'Islam, di cui la professione di fede è la pubblicazione verbale.